Una contadina maestra di vita. Teresa Manganiello. Parte prima. Teresa, figlia di famiglia. Capitolo quinto. Il lavoro. Dagli stati della popolazione di Montefusco emerge che, di circa 2.000 abitanti, meno di un centinaio risultavano possedenti o benestanti. Un altro centinaio esercenti le cosiddette arti liberali, cioè i professionisti, avvocati, medici, impiegati, mentre i rimanenti vivevano di lavoro manuale. Pochi quelli che esercitavano dei mestieri, il barbiere, il macellaio, maniscalco, calzolaio, falegname, e tra le donne che lavoravano al tombolo e merlettaie. Il resto della popolazione lavorava la terra o non lavorava affatto e viveva di mendicità. Relativamente alto, in effetti, è sempre stato il fenomeno dei mendici a Montefusco, come pure in altri paesi limitrofi. La disoccupazione era dunque una piaga molto diffusa e la miseria e la fame attanagliavano buona parte della popolazione inattiva. La famiglia di Teresa Manganiello traeva sostentamento dal lavoro della terra. Terra, occorre dire subito, non sua. Romualdo, infatti, come del resto suo padre Pasquale e suo nonno Tommaso, appartenevano alla categoria dei cosiddetti bracciali, di coloro cioè che come unica risorsa avevano le braccia. Egli, tuttavia, pur bracciale, apparteneva alla specie di categoria cosiddetti massari, cioè di quei contadini che coltivavano terreni altrui in forma stabile e sulla base di contratti stipulati con i proprietari dei fondi e pertanto avevano almeno la sicurezza di un lavoro stabile e di un rendimento minimo per sé e per la propria famiglia. Il contratto di colonia, parziaria o masseria, era regolato prevalentemente da usanze locali. Con esso il colono, mezzadro, massaro, si obbliga verso il locatore di coltivare il fondo col patto di dividerne i frutti, a seconda del patto, degli usi e della legge. Spesso i contadini erano costretti a subire contratti molto onerosi pur di aver lavoro e sussistenza e ovviare alle gravi incognite della disoccupazione o del lavoro occasionale e sporadico. Nell'archivio di Stato di Avellino si è trovato un contratto agrario di Romualdo Manganiello del 13 luglio 1846 con la baronessa Donna Carolina Giordano, da durare fino al 1850. Un altro contratto agrario del 30 giugno 1855, questa volta dello stesso Romualdo, di sua moglie Rosaria e di suo figlio Nicola Manganiello, con Giuseppe Petitto, contratto questo che fu rinnovato il 30 maggio 1862, da durare per ulteriori 19 anni fino all'agosto 1881. La famiglia Manganiello fu dunque strettamente legata al lavoro della terra. L'intera famiglia, secondo le usanze locali, prendeva parte al lavoro, donne comprese. La mole di lavoro era tale e tanta che necessariamente dovevano venire impiegate anche le donne. Basta leggere i contratti agrari per rendersi conto di quali e quanti obblighi gravassero sui poveri coloni nei confronti dei loro padroni. Molti ed onerosi erano i regali dovuti ai padroni, come vedremo. Per la consegna a domicilio dei doni in natura o in denaro da farsi in giorni prestabiliti, era sicuramente richiesto l'intervento delle donne. Queste poi prestavano la loro opera nei vari lavori dei campi, distribuiti nelle diverse stagioni. Coltura delle sementi, concimazione, irrigazione, mietitura, vendemmia, raccolta dei frutti. Oltre a questi vari lavori agricoli, le donne talvolta erano impiegate in altre occupazioni, non meno dure e pesanti, all'interno della famiglia. A loro spettava la provvista di acqua potabile, da attingere spesso a sorgenti o a pozzi distanti dalla casa colonica, lavare i panni, fare due o tre infornate di pane settimanali per tutta la famiglia, tenere in ordine la casa, le varie stanze, preparare i pasti, accudire ai bambini. E tutte queste varie incombenze richiedevano l'opera instancabile delle braccia, senza che spesso avanzasse tempo per pause respiratrici. Spesso le donne dovevano anche occuparsi dell'orto e della coltura dei prodotti ortofrutticoli necessari per la famiglia, senza dimenticare la cura degli immancabili animali domestici, cani, gatti, uccelli, ma anche maiali ed asini da soma. Sicché talvolta qualche donna poteva preferire lavorare tutto il giorno nei campi, anziché restare in casa e dover sobbarcarsi a tutta una congerie di assillanti e imprerogabili impegni. Vita dura dunque per tutti in famiglia contadina. Il lavoro, oltre ad essere uno stretto dovere contrattuale, diventava soprattutto una necessità per la sopravvivenza. Di solito, come talvolta si legge in qualche manuale dell'epoca, il contadino massaro lavorava tutte le ore del giorno, cioè da stella a stella, da quando spunta l'alba fino a dopo il tramonto. E si reputava fortunato quando nevicate o grandine, gelate o temporale, o siccità non venivano a rovinare in tutto o in parte le dure sue fatiche e rendevano vane le sue speranze di buon raccolto. Quando poi in una famiglia contadina la malattia veniva a minare o addirittura a stroncare giovani vite, cosa che in quei tempi avveniva purtroppo di frequente, allora alla durezza del lavoro e alla pesantezza del quotidiano si assommava l'amarezza del vivere. Fu questo di fatto il quadro del lavoro che conobbe e visse la famiglia di Romualdo Manganiello e di Teresa Manganiello, che ne fece esperienza sulla propria carne.